Rassegna Stampa Europa. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento del sabato con la nostra rassegna stampa internazionale di taglio europeo, quello che si racconta sull'Europa, quello che si scrive naturalmente sull'Unione Europea e sulle politiche comuni. Oggi partiamo dall'Italia con il Fatto Quotidiano che ci porta forse a quello che è il principale dei temi caldi, così euro-europei, mi permetto di dire, cioè l'Ucraina. Il Fatto di mercoledì scorso: Ucraina, la Russia minaccia l'Occidente, pronti a nuove sanzioni contro Stati Uniti e Unione Europea nello specifico. Quindi nuova puntata dello scontro a distanza tra Mosca e l'Occidente. La Russia si è detta pronta a rispondere in caso di nuove sanzioni per la crisi in Ucraina. Si è espresso così Dmitry Peskov all'agenzia RIA Novosti, quindi il portavoce del Cremlino, l'agenzia ufficiale di Mosca, precisando che si stanno esaminando ulteriori misure da approvare se e solamente se l'Unione Europea e gli Stati Uniti continueranno a ricorrere alla politica non costruttiva e addirittura distruttiva, così viene definita da Mosca, delle sanzioni. Le possibili nuove sanzioni russe potrebbero colpire l'importazione di auto straniere, di farmaci, di attrezzature sanitarie, secondo alcune fonti governative citate dai media russi. Nel primo caso sarebbero graziate le case automobilistiche estere che assemblano le vetture in Russia, e quindi il caso significativo per noi di Fiat Chrysler. Nel secondo prevale la prudenza per non compromettere la tutela della salute dei cittadini russi, quindi il materiale sanitario viene, diciamo, trattato con le pinze, visto che le importazioni arrivano essenzialmente dall'Europa. In particolare molti diabetici a Mosca e non solo hanno cominciato a fare scorta di insulina occidentale. Ieri, racconta il Fatto, il quotidiano economico Viedomosti anticipava che la Russia è pronta a bloccare le importazioni di autoveicoli dall'UE e dagli Stati Uniti. Viedomosti citava fonti informate secondo cui la proposta di misure restrittive già inviata al presidente Vladimir Putin non sarebbe applicato appunto alle auto straniere prodotte in fabbriche russe. E allora, in termini numerici, il 27% delle auto vendute in Russia nei primi sei mesi dell'anno sono di importazione, così importazione pura, quindi così come il 46% dei camion e il 13% degli autobus. La Russia ha fino ad ora bloccato le importazioni di alcuni prodotti alimentari da Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia. E dello stesso tema di Fatto si occupa anche Le Monde in un articolo intitolato "La Russia sosterrà i suoi agricoltori danneggiati dall'embargo". La Russia, dunque, segnala Le Monde, ha già di fatto registrato una riduzione di consumi alimentari su frutta e verdura del 30%, quindi molto importante. La Russia, scrive il quotidiano francese, ha decretato all'inizio di agosto un embargo sulla maggior parte dei prodotti alimentari importati dai paesi che hanno rivolto appunto le sanzioni nei confronti della Russia stessa, quindi abbiamo detto Stati Uniti, ma in questo caso soprattutto l'Europa intesa come Unione Europea e in particolare dunque gli Stati dell'Unione, tra cui noi. Ecco, alcuni prodotti importati, spiega l'articolo di Le Monde, come il maiale per esempio, il pesce ma anche la frutta, rappresenta circa il 30% del consumo complessivo dei russi. Nessuna penuria, nessuna crisi, diciamo, sugli scaffali è stata finora registrata, ma nello stesso tempo si è registrato, quasi come fosse un riflesso, una riduzione dei consumi di quei prodotti. Gli esperti però temono che nelle prossime settimane, in particolare alla ripresa naturalmente della stagione scolastica, insomma in Russia è esattamente come da noi, anzi riapre il 1° settembre, quindi una settimana prima la scuola pubblica, ecco, in quel momento si registrerà invece molto probabilmente una vera e propria impennata dei prezzi. E ora dal Sole 24 Ore: Le banche italiane chiedono 52 miliardi alla BCE da girare alle piccole imprese. In un articolo di Marco Ferrando con l'analisi di Donato Masciandaro e Luigi Zingales si legge: il nuovo rubinetto della BCE si aprirà tra poco meno di un mese, il 18 settembre, ma i conti ormai sono fatti e le prime 10 banche italiane, secondo quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, hanno già deciso di chiedere all'Eurotower oltre 50 miliardi. Sì, perché se è vero che per il nuovo bazooka di Mario Draghi la serie di 8 TLTRO, cioè Target Long Term Refinancing Operation, il potenziale complessivo per le banche italiane è di 75 miliardi. Se è vero tutto questo, dunque il potenziale per le banche italiane a fare la parte del leone di questo piatto saranno, come è naturale, le grandi banche. I board dei primi 10 istituti di credito hanno già deliberato di chiedere a Francoforte 51,8 miliardi, più della metà sarà tirato da Intesa San Paolo, 17 miliardi, Unicredit fino a 15, ma anche per altri gruppi sarà dunque un'occasione per portare a casa risorse fresche a prezzi da saldo, considerato che il tasso fisso è dello 0,25% e la scadenza quadriennale, quindi risorse che però andranno trasformate in nuovi impieghi per le imprese, dunque vanno girate, pena la restituzione anticipata alla Banca Centrale Europea. Insomma, strumenti che fanno evidentemente gola, ma che vanno utilizzati in maniera molto precisa, in sostanza, per rialimentare il sistema economico. E a proposito di sistema economico, un pool di premi Nobel criticano pesantemente, anzi accusano la politica di aver spinto l'Europa nella depressione. Questo è un articolo pubblicato giovedì mattina dal quotidiano britannico The Telegraph e racconta di una riunione che si è tenuta sulle sponde del lago di Ginevra, un congresso ad alto livello. Il tema è stato di fatto un vero e proprio j'accuse da parte di economisti, molti dei quali in premi Nobel, che accusano la situazione attuale è stata creata dalla politica. In particolare viene citato Peter Diamond, dice: gli storici riconosceranno presto che sono stati i politici a spingere l'Europa in questo stato di crisi così grave. E aggiunge: i giovani di Spagna e di Italia che non riescono a entrare sul mercato del lavoro saranno colpiti per decenni da queste scelte. È un risultato terribile ed è davvero sorprendente quanto poco l'opinione pubblica reagisca a una realtà in cui la responsabilità di queste scelte politiche è da attribuire, dunque la responsabilità di queste scelte è da attribuire proprio ai politici. Questo nel corso della riunione partecipava anche il professor Josef Stiglitz, che dice: le politiche di austerità sono stato un fallimento disastroso e sono direttamente responsabili per la mancata ripresa nel corso della prima metà di quest'anno, e cita proprio l'Italia che cade in recessione, la Francia crescita zero e persino la Germania che vede contrarre la sua crescita nel secondo quarto, e aggiunge: c'è un rischio di depressione che potrebbe durare per anni, qualcosa che farebbe della cosiddetta Japan's Lost Decade, il decennio perduto del Giappone, come dire, una bazzecola quasi, metterebbe in ombra il decennio perduto dell'economia giapponese. Conclude Stiglitz: l'economia dell'Eurozona è almeno il 20% sotto la tendenza complessiva del mercato. In conclusione, una notizia che, come dire, sarà forse significativa soprattutto per gli appassionati di sci: il fallimento di Elan, o Elan a seconda di come veniva pronunciato. Per molti Elan è soprattutto la marca degli sci di Stenmark, quindi gli sci usati negli anni 70 dal campione svedese Ingemar Stenmark, i mitici Elan, vanno in cantina per sempre. La Commissione europea ha infatti ordinato alla Slovenia di avviare entro 20 giorni una procedura fallimentare dell'azienda produttrice di articoli sportivi, alla quale non resta che andare in bancarotta, non essendo in grado di rimborsare il prestito da 10 milioni di euro erogato dalle autorità di Lubiana. La Commissione UE aveva già puntato il dito nel 2012 contro la Slovenia, colpevole di non avere correttamente dichiarato il finanziamento alla Elan, violando così le regole della concorrenza comunitaria. Bruxelles aveva ordinato all'azienda di rimborsare la somma, ma evidentemente appunto Elan non ce l'ha fatto e ora si profila il fallimento di un nome storico legato appunto soprattutto ai grandi successi del campione svedese. E con questo è tutto per questa mattina, un saluto da Fabio Cantadoro in regia, da Gigi Donelli al microfono. Naturalmente l'appuntamento europeo e con la stampa sull'Europa è per sabato prossimo. Buon fine settimana. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.